Parliamo ora di A Teatro Nelle Case, territori da cucire numero 2 dal 23 settembre, quindi è già cominciato, fino al 22 ottobre di quest'anno, Valsamoggia, provincia di Bologna. Ne parliamo con Stefano Pasquini, ci sei? Sono qua, ciao a tutti. Ben ritrovato Stefano. Grazie. Allora, ci dici un po' tutto tu. Sì, vi dico io. Allora, quest'anno l'edizione di A Teatro Nelle Case, Territori da Cucire, è interamente dedicata a un tema che abbiamo affrontato a partire da questa primavera, quindi durante tutto l'arco dell'anno, ed è la domanda, ci siamo interrogati sul significato della parola straniero. Abbiamo fatto un lungo percorso molto bello, incontrando un sacco di gente, e in quest'ultima fase del progetto abbiamo invitato una serie di altri sguardi, quindi non della nostra compagnia, su questo tema, e abbiamo cominciato sabato scorso, quindi alcuni giorni fa, con lo spettacolo Rumore di Acque, che abbiamo già ospitato anche qui al Radioteatro, quindi esatto, lo conosciamo. Lo conoscete bene, del Teatro delle Albe. Poi abbiamo ieri presentato in anteprima il film realizzato sul progetto. Il prossimo appuntamento, che è già in atto, è quello con una compagnia francese, il Teatro des Chambres, diretto da Christophe Piret, che sto parlando francese con loro, che sono qui in residenza da ieri l'altro, e coi quali stiamo lavorando per presentare in maniera particolare un loro spettacolo nato in Francia, quindi nato con una prevalenza di francese, e che invece qui in Italia avrà invece una prevalenza di italiano, perché è un altro delle questioni che ci poniamo rispetto al teatro e all'arte, è come farla viaggiare, come fare attraverso l'arte ad attraversare le frontiere, contribuire a distruggere le frontiere e ad avvicinare le persone. E domani, l'altro giovedì, saremo ospiti dell'Alliance Française in via De Marchi a Bologna, che ci aiuta nella realizzazione di questo progetto di residenza del Théâtre des Chambres, e giovedì alle ore 18 all'Alliance Française Christophe Piret incontrerà il pubblico bolognese proprio per raccontare la singolare esperienza di questa compagnia radicata nel nord della Francia, ma che è aperta al mondo, che lavora con la Russia, con l'Italia, con la Germania, e che è imbarcata proprio adesso in un progetto che coinvolge l'Algeria. Poi sabato qui al nostro teatro presenteremo lo spettacolo Un rendez-vous si loin. Poi gli appuntamenti continuano con un appuntamento importante con la compagnia Cantieri Meticci, bolognese di radice, ma in realtà formata da attori che vengono da 50 paesi del mondo, e poi proseguirà nell'ultimo appuntamento con Da questa parte del mare, Giuseppe Cederna, che dal bellissimo libro di Gian Maria Testa ha tratto questo spettacolo Riflessione, quando eravamo noi i migranti dall'altra parte del mare, quando gli italiani partivano. Questo in estrema sintesi, sì, è il programma che ci aspetta nel prossimo periodo. Bene, i riferimenti internet? Naturalmente, se volete cercare www.teatrodelleariette.it, trovate tutto il programma, gli approfondimenti, potete anche aggiornarvi con Facebook Teatro delle Ariette, ma altrimenti sul sito trovate anche il nostro numero di telefono se volete parlare con noi e quindi avere ulteriori spiegazioni. Quello che ci tengo a sottolineare è che nello spirito che ha contraddistinto tutto il lavoro di quest'anno abbiamo deciso che tutti gli appuntamenti spettacolari sono a ingresso gratuito, per permettere proprio una maggiore possibilità di accesso alla fruizione del teatro, del cinema, e E che dire, vi aspettiamo. Sì, no, proprio a questo proposito volevo sapere come sta andando il vostro nuovo teatro. Il nostro nuovo teatro sta andando bene, molto bene, ci dà grandi soddisfazioni, è diventato appunto anche una casa di residenze dove possiamo non soltanto presentare spettacoli ma anche lavorare insieme con gli artisti, far incontrare gli artisti e gli spettatori qui sul nostro territorio. E poi credo nel nostro piccolo, perché il nostro è un piccolo teatro, però questa cifra dell'intimità, dei piccoli numeri, permette un contatto veramente profondo e credo che per il teatro sia importante la sua specificità, trovare questo contatto proprio carnale, proprio di corpo, di sguardi, di voce viva. E beh, nel nostro teatro questo succede e siamo contenti. Stefano, in chiusura ti posso chiedere un impegno? Sì. Allora, per stranieri, se ci sono dei lavori che ospitate e che registrerete, si può pensare poi a una futura messa in onda da queste frequenze? Benissimo, perché no? È una cosa molto bella. Noi stiamo intanto raccogliendo in piccole interviste, ma molto semplici, video, quindi valide anche per l'audio, da ogni compagnia che arriva un racconto sul loro spettacolo, come è nato, che vita ha avuto, che strada ha fatto. E questo è già un impegno. Ci impegniamo con voi perché queste cose possano essere diffuse, con immenso piacere. Va bene, allora aspettiamo un vostro contributo, un abbraccio e un in bocca al lupo. Grazie mille, a ciao, presto. Ciao.